confesso dentro i taxi. Facciamo un'altra corsa. Puoi chiamarlo multitasking. Ho un vaffanculo nella borsa. Tu sei il mio guaio preferito. Con la maglia su di già, su di già. Alla festa senza invito. We don't give a fuck. Alzami la musica. Ripiglia, ti sei sbronza. Un'ora al tappo 15. Non sono una stronza, ma occhio a non spingermi. Lo sento sui denti, segrezza, ma splendi in noi. Cuori selvaggi, leggende ogni bene. Al gruppo su WhatsApp, porta chi ti pare. Se vuoi fare il tucca tucca col tattoo sulla nuca, ciò che non mi uccide me la suca. Già, è venerdì.